Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente oggi avremo anche, ahimè, il venerdì, la poco invidiabile classifica della settimana. L'altra grossa notizia, diciamo la notizia della giornata economico-finanziaria, riguarda di nuovo i mercati. Brutta la chiusura di tutte le borse europee, meno 3% a Francoforte, meno 2,80% a Parigi, meno 2% a Londra. E anche il Dow Jones in America va molto male, meno 2,42%, con Milano che perde il 3,30%. E qui che cosa è successo? Nulla, diciamo, di nuovo dal punto di vista della notizia, ma di nuovo, scusate gioco di parole, il prezzo del petrolio. Il Brent, che non è il WTI che citiamo spesso, comunque il petrolio del Mare del Nord, è sceso anche sotto i $30 al barile. Londra, come si capiva anche dal racconto degli indici, che in queste settimane era risultata meno in calo rispetto alle borse dell'area euro, ha dato il via alle vendite. Calano anche tutte le materie prime, ce ne siamo occupati a inizio settimana e fummo facili profeti. Rame meno 1,5% oggi, l'alluminio meno 2%. Mosca malissimo, perché sappiamo che, e anche di questo ci siamo occupati nella settimana, che Mosca può avere un pareggio di bilancio solo con un petrolio, così hanno dichiarato le autorità russe, intorno ai $65 al barile, che è tra i 65 e gli 80, in realtà, ha detto il ministro delle finanze, un livello che sembra assolutamente irraggiungibile in questo momento e anche nei prossimi anni, a meno che non cambino le cose, ma non c'è nessuna previsione di un petrolio che possa arrivare a quella cifra nei prossimi anni. E Mosca, la borsa oggi ha avuto un tracollo di oltre il 6,20% sull'indice RTS, in Micex oltre il 5%. Questa mattina non era andata meglio alle borse asiatiche, dove Shanghai ha perso il 3,5%, Hong Kong l'1,5%, un po' più contenuto il calo di Tokyo, il Nikkei ha perso lo 0,54%. Male, come presumibile, soprattutto oggi i petroliferi. Tenaris perde il 6,70%, perché non estrae petrolio Tenaris, però produce le pipelines, produce, diciamo, le condotte per il trasporto dell'energia. Ancora per quello che riguarda i titoli petroliferi, Saipem meno 6,30%, Eni meno 4,20%. Poi c'è il fronte delle banche: Monte dei Paschi perde il 6,60%, di nuovo sotto forte pressione il titolo di Siena, e come è già avvenuto nei giorni scorsi, anche la Cassa di Risparmio di Genova. Però sul fronte delle banche a maggiore capitalizzazione, segnalo che anche quelle che si erano messe in evidenza nella settimana, le banche popolari, oggi sono negative. La Popolare di Milano perde il 3,80%, il Banco Popolare pure. Invece sul fronte degli altri titoli, male anche Iux Net a Porte meno 6,44, Fiat con Gruppo Fiat, sia con CNH Industrial meno 5,90 che con Exor, la controllante, perde il 5%. E poi il titolo Fiat perde il 3,30, il titolo Ferrari il 3,60%. Chiudiamo con ST Microelectronics che perde il 5,25%, la Pop Emilia Romagna il 4,80, Telecom il 4,70, UBI il 4,40 come Unipol e Mediobanca, Prismian perde il 4,40 anch'essa, e infine Moncler meno 3,30 come Buzzi Unicem, Intesa San Paolo meno 3,20 come Unicredit. Non si salva nulla, c'è solo Italcementi che guadagna lo 0,10%. L'euro si è anche un po' rafforzato, a quota 1,09, 1,0950, qui vicino a quota 1,1. Parleremo del petrolio e parleremo però anche dell'altro tema di questa giornata economico-finanziaria. Mi riferisco alla botta e risposta Devo dire che nei toni abbastanza duro tra Bruxelles e Roma. Allora, cosa è successo? I nostri GR24 ve l'hanno già raccontato, ma nella conferenza di inizio anno Juncker, il capo della Commissione europea, ha detto di amare molto Renzi, ma gli ha rimproverato apertamente di vilipendere la Commissione a ogni occasione. E l'accusa è abbastanza pesante, cioè di offendere la Commissione a ogni occasione. Non solo, ha aggiunto Juncker, sono sorpreso che alla fine del semestre italiano Renzi abbia detto davanti al Parlamento che è stato lui ad avere introdotto la flessibilità, perché sono stato io sono stato, e ascolteremo anche l'audio più avanti. Ha aggiunto Juncker, che era particolarmente seccato, io mi tengo il mio rancore in tasca, ma non crediate che sia un ingenuo. È intervenuta anche il ministro, diciamo, degli esteri dell'Unione Europea, Lady Pesce, Mogherini, ha detto no, è sbagliato, è stupido creare divisioni, Italia e Europa hanno bisogno di una dell'altra. È intervenuto poi soprattutto come replica il ministro dell'economia Padoan, che ha escluso intenti offensivi, ma ha ribadito con forza che si è arrivati alla flessibilità con il dibattito sviluppato durante il semestre di presidenza italiano. E, polemica, diciamo, dai toni abbastanza non ortodossi, abbastanza sorprendenti per alcuni versi, con Bruxelles, che deve ancora dare via libera alla nostra legge di stabilità, faccio presente. Questo per quello che riguarda i temi. 349-238-6666 per i vostri sms e poi per WhatsApp, la pagina di Focus Economia anche sul sito di Radio 24. Visto che parlavamo dei prezzi del petrolio, pensate che in Canada, allora, il WTI in America è sceso a $29,28 al barile, ma in Canada è arrivato a $15 al barile. Il Canada il prezzo venduto a un prezzo così basso è, per carità, un petrolio, è quello di un petrolio a bassa qualità, però i produttori stanno tagliando spese e posti di lavoro. Il primo carico di petrolio americano dalla fine del divieto di esportazione invece arriverà in Cina, la cinese Sinopec, sarà caricato in marzo da un porto del Golfo del Messico. E una buona notizia è che, nonostante il crollo del prezzo del petrolio, non si sono fermati nel 2015 gli investimenti in fonti rinnovabili. Uno dei grossi timori, infatti, è che si blocchino tutti gli investimenti nelle rinnovabili perché non più convenienti, con un petrolio a $29, $30, $32 al barile. I paesi hanno complessivamente investito $330 miliardi in eolico, solare e altre fonti verdi, il 4% in più rispetto al 2014. Sono aumentate le risorse stanziate in Cina, Stati Uniti, Africa, America Latina e India. In Europa si è registrata una leggera flessione, ma faccio notare, come emerso anche dal recente vertice di Parigi, che l'Europa di questi paesi è, se guardiamo Cina e Stati Uniti, è il più virtuoso quanto al raggiungimento delle fonti, dell'apporto delle fonti rinnovabili. Me lo chiedete al 349-238-6666? Sì, chiaro che c'è stato anche un ulteriore deprezzamento, calo del rublo, della valuta russa nei confronti del dollaro e dell'euro, dopo il calo ulteriore del prezzo del petrolio. L'euro è arrivato, un euro vale 84 rubli, il dollaro, un dollaro vale 77 rubli. E proprio alle turbolenze sui mercati finanziari dovute al calo del greggio sono dedicati 100 secondi di Radio 24, solo 24 ore. La firma oggi del vice direttore Alessandro Platerotti. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. con Alessandro Plateroti. La grande capitolazione dei mercati finanziari è cominciata dopo settimane di passione, un inizio d'anno soprattutto drammatico, partendo dalla Cina per arrivare poi al prezzo del petrolio, in generale a tutte le commodities. Beh, insomma, questa chiusura di settimana, questo venerdì nero della borsa, veramente va considerato non come un fenomeno straordinario, ma come un altro forte passo in direzione di una grande correzione di tutti i valori borsistici mondiali. Accusare la Cina va bene, rimproverare di non saper gestire la crisi è certamente giusto, o anche il prezzo del petrolio sotto i $30, ma non è certamente questo il fattore che sta buttando giù i mercati. È un mondo dove le prospettive di crescita delle economie, soprattutto quella americana e quella europea, ma anche gli stessi rapporti di forza nei grandi negoziati commerciali fra est, ovest e soprattutto nei confronti dell'Asia, beh, questo sembra un meccanismo che ormai si è un po' incartato in se stesso. Non c'è una cabina di regia per la crisi, non si riesce a vedere a breve termine come la politica, una leadership politica, possa riportare fiducia dei mercati sulle strategie migliori per restituire prospettive di crescita ai paesi occidentali, ma soprattutto dell'occupazione. Per quanto riguarda le aziende, i profitti aziendali sono tutti in calo. Due terzi del listino americano hanno registrato a questo punto nuovi minimi storici e quello italiano, come vediamo, viene tirato giù dalle banche. Che cosa fare? La migliore cosa da fare è rimanere calmi, affidarsi ai professionisti e soprattutto far passare questa buriana considerandolo come, non come un crollo globale senza termine, ma come una correzione dei listini che dovrà arrivare a non meno del 20% di valore in meno rispetto ai massimi del maggio dell'anno scorso. A che punto siamo? Siamo circa meno 12%, ci sarebbero insomma un altro 8% da perdere dagli indici. Sarà questo il punto di arrivo? È la speranza di tutti, vedremo nei prossimi giorni. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ancora due notizie in breve, poi partiamo con la nostra classifica. Per quello che riguarda gli sms sull'aggiornamento di borsa, perde il 3,36%, adesso Milano, aspettato a questo punto la chiusura e poi faremo il commento complessivo. La notizia buona arriva dagli Stati Uniti, dove la fiducia dei consumatori sale ai massimi da 7 mesi a questa parte. Ma nel giorno in cui però il colosso della grande distribuzione Walmart ha annunciato la chiusura di 270 punti vendita su 11.000, 154 sono negli Stati Uniti e gli altri in America Latina. Walmart ha 1.400.000 dipendenti, a rischio sono a questo punto 16.000 dipendenti. Dall'America sono arrivati anche dati invece un po' inferiori alle attese per quello che riguarda la produzione industriale, meno 0,4%, ci si attendeva un calo dello 0,2%, le vendite al dettaglio sono in linea con le attese. Io personalmente non sono d'accordo con chi, con un ascoltatore che sta scrivendo, è l'America che butta giù tutto, no, perché i dati obiettivamente sono migliori delle attese sulla fiducia dei consumatori, in linea con le attese sulle vendite al dettaglio, un po' più deboli sulla produzione industriale, ma attenzione, insomma, quello che sta trascinando tutto giù è il ragionamento su che cosa capiterà alle società che lavorano col petrolio, alle economie dipendenti dal petrolio, con un petrolio a questi livelli. Oh, la classifica, andiamo in Europa, dei paesi dove le tasse pesano di più sul PIL. Al primo posto è la Danimarca, 2014, 50,8% del PIL, seguono Francia e Belgio 48%, Finlandia 44%, Austria 43,8%, Svezia e Italia 43,7%. Allora, da un lato questo dimostra che l'Italia non è al primo posto, il problema è che siamo al quinto, ma a pari merito con la Svezia. Ora non ci vuole un genio per fare il commento e capire cosa sto per dire, cioè la differenza tra quello che poi con le tasse ottiene uno svedese quanto a burocrazia, servizi di welfare, welfare per le famiglie e quant'altro. Cito la burocrazia perché tu paghi le tasse, ma almeno hai dei tempi rapidi, rapidissimi, delle agevolazioni per lanciare un'impresa. Qui paghi le tasse e vieni ostacolato in tutti i modi per aprire un'attività, come raccontiamo anche spesso. Diciamo, siamo al quinto posto con la Svezia. La pressione fiscale in alcuni paesi è addirittura scesa, però la Repubblica Ceca da 34,8 a 34,1, il Regno Unito da 34,9 a 34,4%. Ancora, ripeto, parleremo anche delle polemiche. È vero che tra Juncker e Renzi, Juncker ha anche aggiunto, probabilmente a fine febbraio mi recherò in Italia perché l'atmosfera tra Italia e la Commissione non è delle migliori. Allora, adesso lo analizzeremo. Devo dire una cosa, che il fatto che Juncker sia seccato, uno se ne fa anche una ragione, cioè voglio dire, mettiamoci d'accordo. Non si può dire per anni che siamo stati troppo supini e troppo succubi, troppo inginocchiati all'Europa, da Monti in poi, senza mai chiedere con forza che se venivano fatte le riforme in questo paese, se mettevamo mano a alcune riforme, l'Europa però doveva mettere mano anche a una maggiore focus sulla crescita e non solo sul rigore e i conti, e poi lamentarsi se si creano tensioni con l'Europa. Secondo me il vero problema è che dovrebbe, tra virgolette, litigare con Bruxelles anche Parigi, che invece gioca i due forni, un po' sta con la Germania, un po' cerca insomma di trovare una sua via. Ma il fatto che Juncker si sia così irritato per la posizione italiana, vabbè, fa parte anche di una dialettica. Oppure decidiamo che non bisogna irritare Bruxelles, può essere una linea anche questa, però allora non lamentiamoci se poi l'Italia è troppo supina e succube di Bruxelles. E qui sì, sono d'accordo che dice, beh, prendiamo le parti dell'Italia. Se per la flessibilità, poi Juncker, invece che rompere le scatole sulla flessibilità, dovrebbe chiarire in conferenza stampa che ne è del suo fantomatico piano, una delle più grandi bufale che abbia mai sentito, lo ribadisco. Il piano che con 30 miliardi di soldi, anzi 15 più 15 di soldi neanche freschi, dovrebbe, secondo l'ex presidente del Lussemburgo, negli anni in cui Lussemburgo faceva gli accordi con le multinazionali per eludere il fisco, dicevo, il fiscalista Juncker dovrebbe spiegarci com'è che questo piano dovrebbe sviluppare 300 miliardi di investimenti privati, cioè per ogni miliardo messo da Bruxelles ce ne dovrebbero essere sostanzialmente 10 messi dai privati. Io non ho ancora capito come, però comunque arriveremo a parlarne. 349-238-6666 per gli sms, per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Occupiamoci prima dei problemi di casa nostra, così poi saremo anche più credibili quando criticheremo l'atteggiamento di Bruxelles e quindi la poco invidiabile classifica. La classifica della settimana. Allora, potremmo, per ridere, raccontare, perché ogni tanto ci sono queste storie di invalidi. La settimana scorsa c'era il cieco che andava a giocare, era Lecco se non ricordo male, andava a giocare alla guerra, quella guerra con come si chiama la guerra? Softball, andava a giocare a softball nelle foreste di Varese e risultava cieco, è assunto in quanto cieco. E la battuta di alcuni ascoltatori è stato sparava alla cieca. Però no, è un caso drammatico. Potrei raccontare anche oggi di un invalido al 100% beccato dai carabinieri di Ferrara a Iolanda di Savoia, truffa aggravata a un ente pubblico, prendeva 800 euro mensili per una malattia invalidante al 100% che l'avrebbe costretto su una sedia a rotelle. L'hanno beccato nel giardino di casa in piedi, che innaffiava con un'irroratrice metallica a spalla. Anzi, mancava solo lo zaino pieno di sassi e c'eravamo. No, io lo dico perché il tema degli invalidi è doppiamente schifoso: da un lato perché freghi soldi pubblici sui finti invalidi, e dall'altro perché rubi risorse e soldi ai veri invalidi, che è ancora più schifoso come atteggiamento. Io gli farei portare con un contrappasso dantesco l'irroratrice metallica a spalla a vita, così magari invalido lo diventa veramente. Comunque, Andiamo al quinto posto. Partiamo dalla Sicilia, ma oggi devo dire non staremo solo al sud. Allora, che cosa è successo? Una volta tanto che la Sicilia ha dato dei soldi europei per un progetto serio, viene tutto bloccato. Parliamo del bando da 320 milioni di fondi europei per gli aiuti alle coltivazioni biologiche, bocciato dal TAR a causa di criteri poco chiari, finanziamenti dati a pioggia a diverse tipologie di biologico senza alcuna differenziazione. Il blocco del TAR rischia di costare carissimo sia alla regione che alle 8.000 aziende agricole siciliane. Perché? Perché nel frattempo i magistrati hanno ribadito la nullità degli atti, hanno nominato un commissario per eseguire la sentenza. La regione ha provato a opporsi. La graduatoria che ha stabilito a chi potessero essere dati i fondi europei virtuosi per le aziende biologiche è stata annullata. Per cui nel periodo che va dal 2013 al 2015 le aziende, queste aziende che hanno già ricevuto finanziamenti per 180 milioni, potrebbero essere obbligate a ritornarli. È arrivata infatti una diffida da parte di alcune aziende escluse dal bando al dirigente generale Rosa Barresi per recuperare immediatamente le somme. Questi fondi europei, la cosa ancora più grave è che a questo punto non verranno certificati da Bruxelles, perché Bruxelles dirà: no, se ve li ha bloccati la sentenza non possiamo certificarli come soldi nostri, e quindi i 180 milioni già spesi di euro rischiano di diventare un buco ulteriore per la regione e per le aziende. Noi ci rendiamo conto, l'azienda che ha vinto il bando ha fatto investimenti sul biologico, poi in agricoltura, dove tipicamente gli investimenti vagano e vanno a frutto dopo anni, ti tocca ridare i soldi, fossero poche decine di migliaia di euro o centinaia di migliaia di euro, non conta. Questa è la follia di un TAR che interviene su una decisione presa nel 2013, anche qui sulla giustizia civile. Io capisco tutto, ma si può avere una giustizia che interviene nel 2016 su soldi erogati dal 2013-2015? Non si riesce ad avere un TAR che interviene hic et nunc, così facciamo anche noi quelli che hanno studiato. Non lo so, chiedo. Andiamo al quarto posto, dove c'è un ex equo, perché da un lato al quarto posto resta la regione Sicilia, ma dall'altro poi arriva anche il polo universitario di Lodi. Parto dalla regione Sicilia. Dunque, l'ultima bandierina nell'isola dei commissari la giunta l'ha piantata alla vigilia di Natale, così recita la Repubblica di Palermo. Perché? Perché ha raggiunto un traguardo storico, la nomina del centesimo commissario, cioè lo sbarco fu dei 1000, ma i commissari sono 100 nel sottogoverno regionale, 100 gli amministratori infatti straordinari ad acta o incaricati di una liquidazione che contemporaneamente siedono ai vertici di enti, istituti e società controllate dalla Regione Sicilia. E quindi la Sicilia, che nonostante il buco di bilancio, l'emergenza, si fa beffe delle gestioni regolari e delle programmazioni di lungo respiro, cosa fa? Risponde alle logiche del nominificio. Tra l'altro questo è un beneficio per i pochi che fanno le nomine e i tanti che le ricevono. Però pensate, 100 amministratori, 100 commissari a guida anche di enti fantasma in Sicilia. Nel frattempo però da Lodi veniamo a sapere una cosa interessante, che in attesa del trasferimento dell'intera facoltà di veterinaria dell'Università di Milano nelle strutture in località Cascina Codazza, trasferimento che avverrà quasi subito, cioè nel 2018, la casa dello studente di Lodi resta inutilizzata. Il cantiere per l'ampliamento del polo universitario è iniziato solo a dicembre scorso e dopo due progetti non attuati, accordi di programma andati in fumo, questa forse è la volta buona, ma ci vorranno 24 mesi, anche perché il progetto dell'architetto giapponese Kengo Kuma, un investimento complessivo di 62, cioè, l'architetto è giapponese, è Kengo Kuma, poi in molti di questi racconti è Kengo famiglia, comunque un investimento complessivo di 62 milioni e 600 mila euro suddivisi tra l'università statale, la regione Lombardia, il comune di Lodi e la provincia. Nel frattempo che succede? Che le strutture già ultimate aspetteranno 2 anni prima di funzionare, sperando che, come sempre avviene in questi casi, l'abbiamo raccontato altre volte, non arrivino le incrostazioni, le tubature, le pareti che ammuffiscono e quant'altro. Pensate che hanno già speso 5 milioni e 500 mila euro per acquistare prima e poi ristrutturare lo stabile della casa dello studente. Mancano, ma un dettaglio, mancano gli studenti, quindi è solo la casa dello. Nel 2015, da marzo a giugno, hanno approfittato della casa dello studente solo di meno di 10 studenti. Praticamente in questo momento, da quello che ci risulta, alloggiano nella casa dello studente 2 matricole, che immagino, a parte, sembrano quelle della pubblicità di un'acqua minerale, le 2 molecole, che, a parte la solitudine, ma anche la bellezza. Dove dormi stasera tu? Ma io il primo, tu al secondo, no, io cambio camera, no, mi piace più la 3, no, mi piace più la 5. 2 che si incontrano, vorrei sapere, sarebbe utile sapere se sono anche di sesso uguale o di sesso opposto, per capire insomma se questo possa dar adito anche a altri tipi di socializzazione, fermo restando che a questo punto il sesso è anche irrilevante in questi giorni. Per cui insomma, però 2 studenti nella casa dello studente, e va bene, potevano chiamarla la casa degli studenti aggiungendo 2. Oh, andiamo al terzo posto, dove ho Napoli, o meglio insomma la giunta di De Luca, quanto a lesinare sugli stipendi mica ci pensa. Poi gli stipendi tagliati alla Camera, per modo di dire, fra 2 anni si riparte forse, perché scade fra 2 anni, e vabbè. E poi al primo posto non ve lo voglio bruciare, però il meteo e la pubblicità, poi torniamo in diretta. Focus Economia. Oh, di nuovo con la classifica, al terzo posto. Allora, diciamo subito, il governatore di qualunque regione italiana, nel caso specifico Vincenzo De Luca, ha tutti i diritti di prendersi l'uomo web, web manager, come cavolo si chiama? Ah, devo dare una correzione, non è soft ball, che è uno sport femminile, il baseball femminile, ho sbagliato, è il soft air, quello che praticava il cieco nelle foreste nei boschi di Varese. Torniamo a De Luca. Uno ha il diritto di scegliersi i collaboratori, ci mancherebbe, però se i soldi sono pubblici noi abbiamo il diritto di commentare le scelte. Perché lo dico? Perché il 1 giugno del 2015, mentre noi ci occupavamo della Grecia che rischiava di saltare, dell'euro che non teneva, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato il decreto che nomina a dirigente a contratto con un compenso di 181.000 euro lordi l'anno, 15.000 euro lordi al mese, il salernitano Mario De Rosa, il quale avrà la qualifica di responsabile all'informazione multimediale. Allora, io capisco tutto, ripeto, uno ha bisogno del suo uomo web, va bene, però perché lo paghi così tanto? Perché dico tanto? Perché ha la stessa somma che guadagna il governatore, il portavoce del governatore Emilio Di Marzio. È un po' inferiore al capo dell'ufficio stampa, Paolo Russo, che guadagna 200.000 euro lordi l'anno, ex responsabile della redazione di Salerno del Mattino. Dico già a quelli che sto nominando, è inutile che poi mi chiamate, non voi ma altri l'hanno fatto, al telefono lamentandovi, un collega non deve fare queste cose, ma non è vero. Cioè, questi sono soldi pubblici. E uno ha anche il diritto di commentare se il ruolo dell'ufficio stampa della regione Campania vale questo, e il ruolo del web, dell'uomo web, vale 15.000 euro l'ordine al mese. Anche perché facciamo notare che il capo ufficio stampa del comune di Napoli, che avrà da fare anche lui, visto, no? Percepisce 3.000 euro netti al mese. Tra l'altro, e anche al tempi di Stefano Caldoro, guadagnavano 5.000 euro lordi al mese più indennità, non 15.000 euro lordi al mese per fare web manager o gestore web con un capo ufficio stampa che ne guadagna anche di più, perché sono 200.000 euro lordi l'anno. La qualifica di De Rosa è appunto responsabile all'informazione multimediale, non è un giornalista, si è diplomato per perito elettronico, è iscritto all'albo dei pubblicitari professionisti, dei pubblicisti, ha numerose esperienze nel campo del marketing, e va bene, meno male, soprattutto della pubblicità, però ha lavorato a lungo alla Cipra, però è soprattutto un esperto del bartering. Questa è giusta, stavolta l'ho detta giusta. Il bartering è il baratto, è l'evoluzione del baratto, ossia lo scambio di beni e servizi in compensazione praticato tra imprese. Stiamo parlando di quello che noi chiamiamo cambio merci, delle volte. È il core business, infatti, di Conme Media, la startup con sede a Salerno, di cui De Rosa è uno dei fondatori e nella quale lavora anche Pierpaolo Pittari, che ha seguito la campagna di De Luca come web manager. Comunque avrà un budget, perché con i soldi di Bruxelles la regione Campania ha 30 milioni da spendere in 5 anni, le ha stanziati recentemente, per la struttura per la comunicazione della giunta De Luca, che lo stesso De Rosa potrebbe dirigere all'interno di Sviluppo Campania, è una partecipata al 100%, quindi il budget ce l'ha. Infatti è riuscito a far salire la voce, diciamo, sui social network con una campagna da 40.000 euro spesi tra Google, Facebook e Twitter. La regione Campania adesso su Facebook è prima tra gli enti regionali in Italia. Io lo ritengo molto importante, vorremmo che arrivasse a essere prima non solo su Facebook ma anche, diciamo, quindi nella graduatoria degli enti regionali meglio amministrati. Però partiamo da Facebook, partiamo da Twitter, partiamo dai social network, poi arriviamo però anche ai social people, cioè ai campani, chiedo. Allora, secondo posto, qui eravamo molto indecisi, al secondo posto mettiamo un'ipotesi, ecco perché non ha vinto il primo posto, ossia la famosa riforma Monti quanto devono essere pagati i dipendenti della Camera scadrà il 31 dicembre 2017, quella che stabilisce il tetto dei 240.000 euro alle retribuzioni pagate dallo Stato. Dopodiché a quel punto, se non interverrà un provvedimento, si ripartirà con la giungla delle retribuzioni. La sentenza non passa, questa è una sentenza che ha stabilito che dal 2017 poi si riparta, che è arrivata perché vi sono stati a Montecitorio più di 1.000 ricorsi, o meglio i ricorsi di 1.000 persone appartenenti a 10 sigle sindacali. Ci sono 10 sigle sindacali a Montecitorio, l'80% dei dipendenti, che non ne vogliono sapere di guadagnare al massimo 240.000 euro. Questo è comprensibile, su. Cioè, il famoso barbiere che ne guadagnava 100.000, adesso ne guadagna molti meno. E tutta la gente che dice: ma com'è possibile che io, che faccio il dipendente della Camera, che godo di questi privilegi, non guadagni almeno una cifra superiore ai 240.000 euro? Tra l'altro faccio notare che nonostante il limite di 240.000 hanno fatto un po' il cavolo che volevano, perché hanno escluso dal computo le competenze previdenziali, le indennità di funzione, i compensi apicali, cioè il compenso totale può ampiamente quindi superare i 240.000 e arriva a essere anche più alto dello stipendio del capo dello Stato. E per aprile, comunque, entro aprile si deve pronunciare la Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzioni sollevato da un giudice del lavoro che si era visto recapitare altri ricorsi. Comunque faccio notare che in tutto questo è vera la notizia che ci hanno segnalato gli ascoltatori, ossia la pensione tutta legale, lo preciso, è tutto legittimo, il problema è se è opportuno. Mi scrive un ascoltatore che a Lodi gireranno Shining 2, sì, alla casa dello studente. Comunque, il compenso di Antonio Malaschini va in pensione con 519.045 centesimi di euro all'anno. Siamo a 1 miliardo delle vecchie lire di pensione. Era un alto funzionario pubblico, però insomma, questo la dice lunga su come funzionano le cose lì dentro, perché lui è ben lontano dai 67 anni con cui, diciamo, la Fornero manda in pensione le persone adesso. Va a casa e si porta un assegno che è pari al 90% dell'ultima retribuzione, astronomica, ecco perché poi la pensione è così alta. Sostanzialmente lui guadagnerà più dei manager di società pubbliche, che lì, se vogliamo, era più controversa, perché un manager, se lo devi prendere sul mercato, mettere il tetto di 240.000 euro non vale per le quotate in borsa, però è rischioso, perché rischi di avere gente che dice no, guarda, restano in privato perché è troppo poca la cifra. Allora lì si poteva fare un ragionamento per dire attenzione, però è giusto che il pubblico abbia anche i migliori manager, e c'è un prezzo di mercato, non diventiamo populisti demagogici, ma sentire che Antonio Malaschini va in pensione con 520.000 euro, ha rinunciato, a dire il vero, alla retribuzione come consigliere di Stato, che pure gli sarebbe aspettata, ma non allo stipendio previsto per i sottosegretari non parlamentari, 188.000 euro, che appunto porta il totale dei suoi redditi a 700.000 euro. Sono 1.000 euro ogni giorno che passa, praticamente quello che è l'assegno medio mensile pagato dall'INPS, solo che lui non ce l'ha ogni mese, ce l'ha ogni giorno. Complimenti anche a Malaschini, ripeto, tutto legale, questo è il problema, se vogliamo. Vabbè, questa però è l'ipotesi che nel 2017 si blocchi il tetto, era un'ipotesi. Quella che stiamo per raccontare, che vince il primo posto, è una certezza. Chiedo ancora un attimo di pazienza al traffico. Focus Economia. And the winner is... Oh, il Centro Nazionale Ricerche Italiano, il CNR. Adesso vi arriviamo. Vedo che della classifica di oggi la notizia che più è piaciuta è quella della casa dello studente di Lodi. Uno mi scrive, dove sono due studenti, una casa costata 5.5 milioni di euro. Mi scrive un ascoltatore, l'hanno chiamata casa dello studente perché non sapevano arrivasse il secondo, e questo può essere, se non l'avrebbero chiamata a casa degli studenti. Ancora, e vedo che tantissimi scrivono di Lodi, ma è anche di, è anche dei compensi di tutti legali di Malaschini, di Antonio Malaschini. Però al primo posto il CNR, perché? Perché noi sappiamo che i conti dello Stato sono in difficoltà, che non si possono spendere soldi, però adesso mi è bastata la base perché mi sto per incavolare profondamente. Allora, mi dovete spiegare, e questa lo segnala la Corte dei Conti, come mai il CNR stava anche per lasciare a casa 4 precarie storiche della sede di Pisa, di cui una incinta, Paola, Rita, Sonia e Chiara, non diamo i nomi, sono solo le prime di un migliaio di ricercatori che da qui a pochi mesi potrebbero perdere il posto al CNR. Non ci sono i fondi, dicono a Roma, per uno stipendio che per un ricercatore sono 20.000 euro l'anno, però diciamo a me, euro l'anno, va bene, diciamo che il CNR è in difficoltà. Se il CNR è in difficoltà, mi potete spiegare come cavolo è possibile che pochi giorni prima il Consiglio di amministrazione dell'ente abbia stanziato 1.200.000 euro per le indennità di responsabilità ai dirigenti che già il posto ce l'hanno, e prima aveva fatto shopping immobiliare, auto di servizio, il catering? Lo dice la Corte dei Conti, nel senso che ognuno di questi dirigenti si beccherà tra i 4 e i 10.000 euro ciascuno. Poi, nello stesso giorno in cui è arrivata questa delibera, la direzione generale del CNR ha affidato in concessione i servizi di bar, ristorazione e catering presso tutte le sedi dell'ente, con una gara del valore di 60 milioni di euro in 5 anni. C'è anche la sede che ha in capo le 4 precarie. Poi la Corte dei Conti fa notare che i costi per l'aumento dell'acquisto di autovetture nel CNR sono aumentati nel frattempo da 175.000 a 288.000 euro, che sono aumentate anche le spese di pubblicità, che ha continuato a comprare sedi e ha 65 immobili che superano i 730 milioni di euro di valore, ma su 8.000 dipendenti, di cui 1.400 tempi determinati e 2.500 atipici, i precari sono circa 4.000, e solo i contratti che fanno direttamente capo all'ente centrale in scadenza sono 300, di questi già non c'è copertura. Sonia, Paola, Rita e Chiara hanno ottenuto una proroga fino al 31 marzo, ma io dico, non vi vergognate, cari dirigenti del CNR e direzione generale, a distribuire 1.200.000 euro di premi quando sapete che dovete cacciare persone, di cui anche incinte, che costano molto meno. Io lo dico al caro ministro Madia, premier Renzi, finché non farete all'interno della riforma della pubblica amministrazione La vera riforma delle riforme, quella sui dirigenti della pubblica amministrazione che tengono sotto scacco, dirigenti ministeriali, capi di gabinetto, tengono sotto scacco gli stessi ministri che spesso arrivano. Potremmo fare un libro su come i dirigenti di dipartimento ostacolano, usano a loro vantaggio, diciamo, tutte le competenze che hanno per anche infinocchiare delle volte i ministri. Ma o li rendete movibili e anche non, che non mantengono la carica, cosa che è prevista dalla legge, e iniziamo anche a mandarli via sulla base dei fatti, cioè dovete spiegare se mancano i soldi per i ricercatori. Si chiama Centro Nazionale Ricerche, non Centro Nazionale Dirigenti, se no lo chiamavamo CND, si chiama Centro Nazionale Ricerche. Peccato che ti manchino i ricercatori, non è un dettaglio, se leviamo la R rimane Centro Nazionale, però 1,2 milioni per i dirigenti li trovi, 100.000 euro in più per acquisto di autovetture li trovi, hai 730 milioni di euro e hai continuato a comprare sedi sul mercato, 65 immobili, ma giustamente il problema sono Sonia, Rita, Chiara, pure incinta, e tutti i precari storici delle varie sedi. Questo è il problema. Complimenti ai dirigenti e alla dirigenza del CDR, CNR. Vabbè, andiamo a caso virtuoso. Professor Gregorio Cappuccino, lei è presidente, mi sono legato di CalBAT, buonasera. Buonasera dottor Barisone, buonasera anche ai radioascoltatori. Dov'è che ha sede CalBAT e che cosa fa? Lo dice il nome, Cal non sta per California, sta per Calabria, e la sede di CalBAT sta a Rende, la sede operativa è presso l'incubatore dell'Università della Calabria. Oh, quindi Rende, se non ricordo male, provincia di Cosenza? Esatto, io la sento un po' male, se puoi mettere il telefono meglio, forse c'è un problema di collegamento col telefono. Niente viva voce, niente cuffiette. Mi dica se va meglio. Meglio. Allora, che cosa fa CalBAT? Allora, CalBAT si occupa di accumulo di energia e ricarica di veicoli elettrici. Per accumulo di energia intendo il processo di accumulare l'energia prodotta ad esempio da fonti rinnovabili, che per antonomasia purtroppo sono intermittenti e che di solito producono energia nei momenti in cui non è maggiore il fabbisogno, e il poterla accumulare rende possibile invece il perfetto utilizzo, il completo utilizzo e sfruttamento di queste risorse anche nelle ore dove effettivamente l'energia serve di più. Quindi voi producete per tutti quelli che devono accumulare, se ho capito bene, mi dica, accumulare energia, che cosa? Allora, noi per tutti quelli che devono accumulare energia e usano questi sistemi abbiamo messo a punto uno strumento per poter effettuare questa operazione riducendo al minimo le perdite, quindi gli sprechi, rendendo estremamente redditivi diciamo l'accumulo di energia. Stessa identica cosa riguardo alla ricarica dei veicoli elettrici. Mm-hmm. Senta, quindi, quando è che siete nati? Allora, siamo nati come azienda nel 2012. In realtà come spin-off, come diciamo costola dell'università? Siamo nati proprio come spin-off, quindi come costola dell'università. Ok, bene. Beh, ma guardi che è importante che è una buona notizia, come sempre. E noi raccontiamo da quando c'è questa classifica anche di chi in questi anni di crisi invece si è rimboccato le maniche, che siamo ancora più contenti, lo dico senza nessuna retorica, se queste cose avvengono nel sud, che ahimè tende ad avere una certa predominanza nella nostra classifica. Quanti siete, quanto fatturate e a chi avete venduto, se avete già dei contratti in essere? Allora, attualmente siamo sei persone, cioè lo staff è composto da sei persone, la maggior parte sono profili tecnici quindi sono in carica dello sviluppo di prodotto, ma ormai da tempo abbiamo iniziato la parte di sviluppo commerciale proponendo le nostre soluzioni nei vari segmenti. siamo mi chiederà quanto fatturiamo, siamo in fase di cosiddetta pre-revenue, cioè stiamo fingendo una serie di accordi con dei grossi player a livello internazionale, da premettere che le nostre soluzioni non sono destinate all'utente finale, cioè sono, cioè voi lavorate con le grandi aziende, con le grandi aziende. Mi dia adesso, non voglio avere, cioè mi dia un giro d'affari, non voglio il dettaglio del... Allora, no, le posso dire le previsioni, tenga conto che questo è un mercato un mercato non maturo, la cui esplosione è prevista. Mi dia la notizia, Cappuccino. Nei prossimi anni. Qualche, stiamo parlando di numeri a 6-0 comunque, perché stiamo parlando di milioni di euro di fatturato previsto. Beh. Allora gliela do io. Lei, voi per dicembre 2016 vorrete arrivare a 1,5 milioni, vede che ho le mie fonti? Allora, vedi, però io... più o meno ci ha azzeccato, sì, quella è la posizione, non è che 2016. Sparo con la cabala. Allora, la cosa interessante, vi faccio i complimenti, oltre che lavorare con i grandi gruppi, che voi siete stati inseriti da Enel nelle 100 Italian Energy Companies, no? E anche avete vinto anche avete vinto anche in Germania? Abbiamo vinto anche in Germania, perché ci siamo classificati l'anno scorso tra le prime 10 società con tecnologie innovative nell'ambito FinTech. Oh, ma voglio dire, un'azienda calabrese che va a vincere Munich Clean Tech Innovation Award, ma complimenti veri. Chi vi ha aiutato col capitale? Ho pochissimi secondi, mi dica chi vi ha aiutato, i soldi, chi ve li ha dati per iniziare. Allora, abbiamo fatto il migliore utilizzo che si poteva fare con un premio startup nel 2013, poi Enel è entrata nel capitale sociale, abbiamo partecipato a un progetto che si chiama Enel Lab, anche lì abbiamo cercato di fare il meglio sfruttandola proprio per la crescita e il posizionamento dell'azienda. Allora, in bocca al lupo a lei e a tutti i dipendenti. Infatti voi avete vinto anche la Startup Cup della Regione Calabria, Fincalabria, 15.000 euro. Ci sono dei casi virtuosi ogni tanto. Grazie anche a lei. GR24, poi borsa, petrolio e scontro Juncker-Renzi. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore! Amore! In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ancora molti messaggi su WhatsApp, SMS, 349-238-6666 sulla classifica della settimana. Non posso tornare sul CNR e vedo che si sta creando quasi una colletta per i due studenti, unici due occupanti matricole della casa dello studente di Lodi, in attesa che si trasferisca a veterinaria, costata intanto la casa dello studente 5.5 milioni, per non parlare di Maraschini, pensionato da 520.000 euro, vabbè, che in realtà sono di più se sommiamo le altre retribuzioni. Detto ciò, andiamo alla cronaca di oggi, che vuol dire soprattutto la borsa e soprattutto il petrolio. Oggi il commento di borsa, come lo facciamo di solito, è abbastanza inutile, nel senso che questa mattina hanno chiuso malissimo tutte le asiatiche. Shanghai ha perso il 3,5%, Hong Kong l'1,5%, ma soprattutto è andata a precipizio Mosca, oltre il 6% di calo nell'indice MICEX e oltre il 5% nell'indice RTS e oltre il 5% nel MICEX, con la conseguenza che sono andate male tutte le borse europee e anche Londra pesante oggi, meno 1,93, l'America meno 2,54%, ha dato una mano, tra virgolette. E Parigi meno 2,40, Francoforte meno 2,50, Milano meno 3%. Ripeto, il commento è abbastanza inutile perché non si è salvato nulla, come avviene in questi casi. E qui è più importante parlare del petrolio oggi, dell'energia, dei calcoli che stanno facendo i vari paesi. Cito nell'ordine: Monte dei Paschi meno 6,70, Jux Net-a-Porter meno 6,50, Tenaris meno 6,30, Saipem meno 5,70. E invece il 5,5% l'hanno perso CNH Industrial, Telecom Italia ed Exor. Il 5% è il calo della Popolare Emilia Romagna e di ST Microelectronics. Il 4,5% quello di Finmeccanica, Popolare di Milano e Popolare di Milano. Il 4% lo perde Unipol, ma anche UbiBanca e il Banco Popolare. Il 3,80% è il calo di Mediobanca e di Mediolanum, ma anche di Prismian. Il 3,5% lo ha perso Eni, il 3,20% Ferrari e anche Buzzi Unicemente da San Paolo. Chiudo con chi ha perso più del 2%, ossia Moncler meno 2,80 come Fiat Chrysler, Unicredit meno 2,5 come Atlantia, Generali meno 2,2 come Unipol SAI. Si è salvata, se vogliamo, Italcementi più 0,1 e cali inferiore alla media anche per Enel, Green Power meno 1,70 piuttosto che Tozzo, Campari meno 1,30%, anche le Poste perdono l'1,30%. L'euro nel frattempo si sta leggermente rafforzando a 1,0974, ma ripeto, tutto il ragionamento parte da quello che sta succedendo sulle materie prime, tema con cui abbiamo iniziato la settimana e con cui la concludiamo. Ringrazio per averci raggiunto in studio Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Buonasera Sissi. Buonasera. Allora, oggi il Brent è sceso sotto la soglia psicologica dei $30 al barile. Lo stesso ha fatto il WTI, Brent è il petrolio del Mare del Nord che usiamo noi in Europa. Il WTI, West Texas Intermediate, io dico sempre index e sbaglio, che è quello, è il petrolio texano che si usa come riferimento nel Nord America. Sono calati ulteriormente anche i prezzi delle altre materie prime, le commodities, come si chiamano in gergo, rame meno 1,5%, alluminio meno 2%. Il ragionamento che si fa sulle borse, ma partiamo dal perché di questo calo continuo e sembra abbastanza inarrestabile. Il perché in origine è tutto legato alla Cina. La Cina che per anni, prima sorprendendo il mondo e poi confermandosi in questo ruolo, ha assorbito quantità enormi di materie prime, è arrivata ad importare metà dei metalli prodotti a livello mondiale, tanto per avere un'idea. E questo nel giro di una decina d'anni, nell'ultimo decennio. Nel petrolio ormai contende agli Stati Uniti il ruolo di primo importatore, anche perché gli Stati Uniti ne producono in casa sempre di più e quindi importano meno, è il primo consumatore di energia al mondo. La potenza della Cina è stato il leitmotiv di tutto lo scorso decennio e tutte le minerarie, le compagnie petrolifere, chiunque potesse produrre materie prime, potesse ampliare la produzione, negli ultimi anni l'ha fatto. E quando finalmente, sono lavori lunghi, generalmente ci vogliono anni per sviluppare una miniera o un giacimento, quando tutta questa nuova produzione è arrivata finalmente sul mercato, e proprio in questo momento la Cina ha cominciato a frenare in maniera drastica anche la sua crescita e a cambiare anche un po' un modello di consumi, dalla costruzione di grandi infrastrutture, da una economia molto commodity intensive, come direbbero gli anglosassoni, molto basata su consumo di materie prime, si sta spostando verso modelli più orientati al consumo e ai servizi, un'economia più moderna che si sta anche sviluppando e che anche continua a essere la variabile cinese, cioè questo 6,5% di crescita ritenuta non sufficiente in Cina a deprimere di i prezzi. Di sfondo c'è questo, diciamo, come quello fattore che, principale, quello che ma non, non capisco io, però, per carità, sappiamo che nei mercati c'è sempre l'effetto stampido, cioè parte uno e gli altri a seguire. Perché tutto adesso? Cioè noi lo stiamo raccontando da mesi che la Cina sta rallentando, che crescerà ma non, che il Brasile è in recessione, che pure l'India crescerà ma non è previsto. Perché tutti si svegliano adesso? Ma intanto, come dicevo, questo è il grande tema sullo sfondo. Il declino dei mercati delle materie prime, prima in maniera graduale, impercettibile, è cominciato già da anni. I principali indici che riflettono l'andamento dei panieri di commodities sono in perdita da almeno 3 anni, finiscono l'anno con performance negative. Quindi è un processo che era già in atto, che è accelerato molto. Adesso ha cominciato a fare negli ultimi mesi anche paura tutta la serie di scossoni che stiamo osservando sul mercato azionario cinese, e quindi la situazione è diventata anche psicologicamente più importante. E poi c'è il fattore dollaro, che non va trascurato. Contemporaneamente la Federal Reserve ha interrotto un lunghissimo ciclo espansivo di politica monetaria, ha intrapreso la strada del rialzo di interessi e le materie prime. Però su questo io avrei due domande per te. La prima è: ma quanto potrà, perché in tutto questo si è inserito, l'abbiamo raccontato decine di volte, il braccio di ferro dell'Arabia Saudita, che ha trascinato con sé tutti i paesi OPEC contro gli Stati Uniti per portare il petrolio a un prezzo così basso da buttare fuori mercato chi lo produce negli Stati Uniti, lo shale oil. In realtà sembra fallita questa operazione, nel senso che si diceva sotto i 70 usciranno, non riusciranno più a reggere, e hanno retto. Sotto i 50 non riusciranno a reggere, hanno retto, non tutti, ci sono casi di crisi anche grosse, però vorrei capire quanto potrà andare avanti l'Arabia Saudita a tenere questa posizione, anche perché sta arrivando il petrolio iraniano e non sappiamo quanto il Venezuela resterà in questo schema, diciamo, dell'OPEC. E vale anche per la Russia. Il secondo aspetto riguarda il prezzo del dollaro, ossia c'è chi dice sì, attenzione, però essendo il dollaro aumentato come valore nei confronti dell'euro, nei confronti di altre valute, i paesi produttori di materie prime possono anche produrre meno a prezzi più bassi, diciamo, perché possono produrre meno, perché tanto comunque è aumentato il valore del dollaro, quindi tu puoi produrre. Questo è molto vero per la Russia, perché col crollo che c'è stato del rublo i produttori russi hanno attutito moltissimo l'impatto, i loro costi in rubli. Vendi meno ma vendi un valore più alto, diciamo. Questo vale per i russi, non vale per i paesi del Golfo Persico, perché hanno le valute agganciate al dollaro, esempio. Certo. No, parlavo anche di auto di altri produttori a livello mondiale. Devo però leggere una dichiarazione che appena reso il capo della Sberbank, German Graf, la principale banca russa, ed è stato ex ministro, è un ex ministro dello sviluppo economico, ha detto: l'era del petrolio è finita e la Russia non è riuscita ad adattarsi al cambiamento economico tecnologico, finendo nel gruppo dei paesi perdenti, i downshifters. Resteremo pesantemente indietro rispetto ai rivali più anziani, mentre abbiamo il dato di quanto abbiano bruciato le borse oggi in Europa di capitalizzazione: 260 miliardi. Lo stock 600 è tornato ai livelli di un anno fa. Comunque ti ho interrotto sul fronte braccio di ferro Arabia Saudita. Dichiarazioni forti quelle comunque del CEO di Sberbank da parte di un russo. La Russia è ancora dipendente dal petrolio e dal gas per oltre metà delle sue entrate, e la Russia sta effettivamente soffrendo moltissimo, però non abbassa la produzione, anche perché i suoi costi in rubli sono rimasti bassi, sono rimasti limitati. Il braccio di ferro di cui parlavamo, mi dicevi che è fallito, ma sicuramente non è riuscito finora, e sicuramente ci sta impiegando molto più tempo di quanto i sauditi avessero pensato, ma non è detto che non finisca col funzionare, con grandissime lacrime e sangue anche da parte di chi l'ha avviato, compresa l'Arabia Saudita, che pur avendo delle enormi riserve valutarie e costi di produzione che si aggirano veramente intorno ai 5-6 dollari al barile, quindi per loro non è un problema continuare ad estrarre a pieno ritmo, però stanno consumando le loro riserve valutarie anche loro a ritmi velocissimi, tanto che il Fondo Monetario Internazionale li ha avvertiti recentemente che se non avessero preso misure di bilancio anche severe, avrebbero potuto esaurirli entro un anno. Un po' lo stanno facendo, di pochi giorni fa la notizia che potrebbero privatizzare una parte della Saudi Aramco, che è la compagnia petrolifera nazionale. Ci sono delle misure di taglio della spesa pubblica che è enorme, spesa per la difesa che è enorme, sono paesi che spendono tantissimo e che guadagnano praticamente solo dal greggio. si spera che vadano verso una diversificazione dal loro punto di vista, dal punto di vista delle loro economie. Quindi tu dici, da un lato il ragionamento sull'apprezzamento del dollaro vale per la Russia, vale per altri paesi, non per i paesi del Golfo. E non per gli Stati Uniti, ovviamente. Ma questo è importante, perché lo shale oil è quello che dovrà cedere e che forse cederà. Ci sono, a questo punto ci sono valutazioni di mercato del prezzo del petrolio che ha, con tutte le efficienze, i miglioramenti produttivi che hanno fatto i produttori di shale oil, non ci sta dentro più nessuno. A 30 dollari al barile. A 30 dollari al barile non ci sta dentro più nessuno. Noi avevamo delle stime un anno fa da 350 ai 70, soprattutto se eri piccolo e avevi costi alti ed eri arrivato tardi sul mercato. Però a questo punto tu dici, il prezzo è così calato, crollato. Devo dire che la battuta più bella con cui ti saluto la fa un ascoltatore che dice: con il petrolio a 29 dollari la mia auto praticamente va ad accise, e aggiungo io, e ad IVA. Sì, è vero. Nel senso che se lei prende il suo serbatoio, dentro quel serbatoio il 73% sono accise ed IVA, per cui va ad accise va ad IVA. Una battuta, sì. Non mi sembra che vi sia nessun elemento per dire che potrebbe invertirsi a breve la rotta sul prezzo del petrolio. Beh, c'è una tale enormità di posizioni ribassiste da parte di speculatori sul mercato, che è possibile uno short squeeze, insomma, scusate la parolaccia tecnica, insomma, è possibile che qualche evento possa far innescare delle ricoperture di queste posizioni corte, quindi possa esserci qualche rimbalzo. Il petrolio deve andare molto giù per indurre veramente a calare la produzione. Finché il mercato non vedrà questo, non si invertirà la rotta. Grazie Sisi Bellomo. Traffico. Focus Economia. Riguardo l'Italia e il mio amico Matteo Renzi, esito sempre a esprimermi con lo stesso vigore con cui lui si rivolge a me, perché non credo che ciò faciliti sempre le cose. Potrei fare grandi dichiarazioni d'amore per l'Italia. Sono cresciuto e sono stato educato anche da italiani, visto che nel sud del Lussemburgo la convivenza con gli immigrati italiani era molto stretta. Credo che il primo ministro italiano, che io rispetto e amo molto, abbia torto a insultare e criticare la Commissione regolarmente. Non so perché lo fa, da tempo ho lasciato la politica interna, ma l'Italia non dovrebbe criticare troppo la Commissione. Abbiamo introdotto una dose di ulteriore flessibilità nelle politiche di bilancio, spesso contro la volontà di paesi importanti che si dice dominino l'Europa, e l'Italia gode pienamente di questa flessibilità. Sono stato sorpreso, alla fine della presidenza del semestre italiano, sentire Renzi dire che è stato lui a introdurre la flessibilità. Sono stato io, non lui. Con il suo accordo, ma sono stato io. Vorrei che su questi punti ci si attenesse alla realtà e alla verità. Si insulti pure la Commissione. Io mi metto in tasca il rancore e l'irritazione, che sono grandi, ma si smetta di pensare che io sia ingenuo. Non lo sono. Io non metterei in campo né questioni personali né questioni di famiglie politiche. È un rapporto tra un governo, tra i principali paesi dell'Unione Europea, che si confronta in modo molto aperto e molto franco con la Commissione Europea, avendo in mente allo stesso tempo il fatto che noi vogliamo rafforzare l'Europa, ma che allo stesso tempo abbiamo dei diritti equivalenti a quelli degli altri paesi e intendiamo farci ascoltare. Il governo italiano non ha nessuna volontà di offesa di nessuno, né tantomeno della Commissione o dei suoi membri. I rapporti, al di là di quello che può emergere, rimangono cordiali e costruttivi. Sulla questione della flessibilità è evidente che è stata la Commissione ad introdurre una comunicazione sulla flessibilità, ma io ricordo che si è arrivati a questa decisione della Commissione, che noi riteniamo molto importante, anche a seguito del dibattito che è stato sviluppato in sede di presidenza italiana dell'Unione Europea. Ribadisco il fatto che la flessibilità che l'Italia chiede alla Commissione è totalmente in linea con quanto quella comunicazione della Commissione prevede, e che noi riteniamo abbia l'Italia tutte i numeri, diciamo così, per poterla applicare. Oh, se non sono stracci che volano questi, non so cosa lo siano. Ringrazio l'editorialista del Sole 24 Ore, Guido Gentili. Buonasera Guido. Buonasera. Nel senso che a mia memoria uno scontro così forte, diciamo proprio iniziato dal presidente della Commissione europea, l'avete sentito, Jean-Claude Juncker, che ha detto non sono naif, e figurati se può essere naif uno che ha fatto il presidente del Consiglio in uno dei paradisi fiscali europei come Lussemburgo, e ha detto il merito è nostro, la flessibilità, amo molto Renzi, ma lui vilipende la Commissione in ogni occasione. Poco fa c'è un'anticipazione di un'intervista al TG5 e il Presidente del Consiglio Renzi ha detto non ci facciamo intimidire, l'Italia merita rispetto, la flessibilità dell'Unione Europea è arrivata solo dopo molte insistenze da parte dell'Italia. La domanda è molto semplice, Guido. Questo scontro, altro non è, iniziato da Juncker oggi, ma insomma anticipato nelle settimane scorse anche dal Premier Renzi, è una tattica, diciamo, dell'Italia, perché vuole iniziare a alzare la tensione, perché deve far passare a Bruxelles la bad bank, ne abbiamo parlato ieri, ha il dente avvelenato per come ci hanno trattato sulle quattro banche rispetto a come hanno trattato altri paesi negli anni precedenti, e vuole farsi passare la legge di stabilità, o secondo te è proprio un cambiamento strutturale dei rapporti tra, e quindi di politica tra Renzi e Bruxelles, anche per fini, diciamo, elettorali, quello che volete. L'unica critica che, e poi sto zitto, non accetto, è chi chiedeva un'Italia che alzasse la voce a Bruxelles, adesso magari critica Renzi perché ha alzato la voce a Bruxelles. Però quale delle due, tattica o cambio proprio di atteggiamento? Ma io credo che siano le due cose insieme. Tattica per le questioni che hai sollevato tu, nel senso che ci sono, prendiamo per esempio il caso delle banche, è fresco, diciamo, della polemica con Bruxelles, l'Italia su questo terreno, e quindi io credo che ci sia, diciamo, un momento in cui l'Italia sta, non voglio dire la solita frase, battendo i pugni sul tavolo, ma è comunque ha posto all'attenzione dei partner e del governo europeo, quindi alla Commissione e al suo presidente, un problema di, diciamo, di disparità che si è che abbiamo avuto in Europa su questo terreno. Ma credo anche strategia, non solo tattica, perché un leader movimentista come Renzi, per sua natura, credo che a fronte di questo disordine imponente che c'è in questo momento nel mondo e in Europa, dove che è a corto di leadership diciamo i cui i grandi spiriti fondativi del 1957, del Trattato di Roma, si sono persi per strada, e dove i governi camminano un po' sulle sabbie mobili in questo momento per difendere i propri interessi, beh, Renzi credo che abbia capito che questo è un momento per cercare probabilmente anche delle alleanze, cioè, ha provato con i francesi, per la verità con scarso successo, nonostante Hollande, anche dopo gli attentati di Parigi, abbia detto che, insomma, l'Europa doveva cambiare marcia e che la sicurezza dei paesi e gli investimenti in sicurezza dei paesi vengono prima del patto di stabilità, dicendo forse una cosa più forte di quella che ha detto Renzi nei mesi scorsi, e quindi criticando in questo anche l'atteggiamento europeo. Dicevo, Renzi sta cercando anche un accordo insieme agli inglesi per favorire la possibilità che gli inglesi restino dentro l'Europa, ma a condizione di cambiare questa Europa. Quindi io credo che su questo terreno ci sia effettivamente un tentativo di alzare un po' la posta, che non sia solo tattica, perché se così fosse, e cioè se così fosse per cercare di recuperare consensi interni e guadagnare consensi nel campo del centrodestra, che sono, diciamo, storicamente euroscettici per certi aspetti, ma non lo sono nei fatti, perché hanno approvato senza battere ciglio sostanzialmente il fiscal compact nel 2012. Beh, insomma, un Renzi che sta pensando, e questo non è un mistero, a mettere sul piatto anche l'ipotesi di rivedere il fiscal compact, penso che sia qualcosa di più di una tattica. Beh, molto chiara la tua analisi, quindi tattica sulla cosa breve, perché l'approvazione di Bruxelles deve arrivare a marzo, se non ricordo male, sulla legge di stabilità, e poi anche sulla bad bank. Oggi Padoan ha chiarito, abbiamo chiesto alla Commissione europea di fare il più fretta possibile, ieri abbiamo spiegato che cosa vuol dire questo, però anche strategia per le prossime partite. Staremo a vedere, adesso mi sembra che appunto dalle queste anticipazioni, delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, i toni si tutt'altro non si stanno assolutamente abbassando, ma ripeto, uno la può pensare come vuole, se però ha sempre pensato che l'Italia dovesse far sentire di più la sua voce in questi anni, non può adesso criticare l'Italia se va a uno scontro politico con l'Unione Europea. Grazie anche a Guido Gentili, grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi come sempre per l'assistenza anche questa settimana al programma e in redazione. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passarlo lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.